Pubblicato sulla rivista contemporaneamente Versi, direttore editoriale Luca Giammonino, una nuova poesia della poetessa Ilaria Della Cueva, dal titolo Sale. Un giorno dimenticherai di non sentirti pronto, e un'altra guarderai sperando di essere amato, ed io rimarrò in disparte, a chiudere gli occhi spenti, cercando di non piangere, ma il sale soltanto rimarrà da poter bere.